154esima puntata di Restiamo Animali, la trasmissione per vivere, pensare e agire cruelty free. Sono 10 i lupi uccisi dall'uomo da novembre ad oggi in provincia di Grosseto. L'ultimo è stato trovato il 13 febbraio e la modalità è particolarmente inquietante perché è stata fatta trovare una testa mozzata di lupo accanto a un cartello con un messaggio a dir poco minaccioso verso WWF, LAV ed EMPA. Ne parliamo con Fulco Pratesi, giornalista, ambientalista, fondatore del WWF Italia, di cui oggi è presidente onorario. Beh, è stata una cosa molto triste, molto amareggiante e anche sconvolgente, che adesso ancora nell'anno 2014 ci possono essere queste forme tribali proprio inaspettate. Questo non è altro che l'apice di una strage continua tra canidi e lupi. 10 sono stati uccisi in questi ultimi tempi, di cui 5 anche lupi, e questo ci preoccupa molto, a parte il fatto che il lupo è un animale protetto in tutta Europa, travalica qualsiasi possibilità di avere poi un rapporto con persone che fanno cose di questo genere. Secondo lei le aggressioni dei lupi ai greggi di pecore può giustificare tutto questo? Ci sarà sicuramente, non si può negare, una preoccupazione per le greggi, ma poi c'è questa violenza insita, molte volte esce fuori. Oggi purtroppo i casi di violenza non è solamente contro i lupi, vediamo ogni giorno casi di violenza anche contro gli uomini e soprattutto contro le donne. Ho presieduto per 10 anni il Parco Nazionale d'Abruzzo, anche là tra Molise e Abruzzo le pecore sono altrettante quante sono quelle della Toscana, e anche là ci sono lupi, forse più lupi che non in Toscana. Danni di lupi alle pecore certamente ce ne sono, ma sono tollerati come un fatto naturale. Quindi Abruzzo e Toscana, due regioni con lo stesso problema che però reagiscono in modi molto diversi. Qual è la sua ipotesi? L'ipotesi è questa: in Abruzzo il fenomeno della caccia non è mai così violento, tanto non è così esteso, molto meno, è più ridotto, ma non ha questa aggressività che hanno invece i cacciatori toscani, noti proprio in tutta Italia, insieme a quelli dei Umbri o del Bergamasco e del Bresciano. Hanno una particolare attività e aggressività, gente che non ha più cultura, non ha cultura, non ha tolleranza e non ha neanche un approccio regolare, come era un tempo quella dei contadini, dei cacciatori dell'Ottocento e primi del Novecento, che era un approccio, diciamo, mediato ma anche civile. Ora è tutta una corsa che ammazza di più, e purtroppo questa specie di malattia si sta diffondendo anche all'estero. L'Albania da pochi giorni ha proibito per 2 anni la caccia ai cacciatori italiani in tutto il territorio, per far capire come sia cambiata completamente, è diventata una cosa consumistica e aggressiva, senza quelle misure e quei connotati di intelligenza, di sensibilità, di conoscenza anche della natura che c'erano i cacciatori, che avevano un senso di rispetto. Poi basta vedere quella passione verso i piccoli uccelli. Oggi in nessun paese del mondo si uccidono piccoli uccelli, finguelli, altri passeri da altri. È una cosa che è inaccettabile. E questo credo che dovrebbero pensarci bene le associazioni dei natori, che invece si riuniscono sempre su posizioni populiste e antinaturalistiche. Fulco Pratesi, restiamo animali? Dobbiamo restare animali, avvicinarsi quanto più possibile alla schiettezza, alla onestà e alla bellezza e alla lealtà degli animali. Se esistesse un premio per la città più crudele verso gli animali, sicuramente in Italia Siena è una di quelle città che potrebbero concorrere, con molte possibilità di aggiudicarselo. Basti pensare a quello che rappresenta per i cavalli il Palio di Siena. Ma anche in contesti così difficili ci sono degli arditi animalisti, antispecisti, vegan, che stanno preparando qualcosa. Abbiamo al telefono Arianna Gambelli, che ci racconterà il ciclo di eventi che si terranno a partire da questa domenica 23 febbraio nella città di Siena. È nato quasi tutto in una serata con un gruppo di volontari. Abbiamo in questo caso il sostegno della LEAL, però abbiamo organizzato tutto appunto come volontari. Abbiamo detto perché no, proviamoci. Apriamo con il pranzo. Domenica 23 presso la Corte dei Miracoli di Siena, una fantasia di vegan antipasti, risotto alla zucca gialla aromatizzato al timo, pasticcio di pasta con ragù di soia, la tagliata di seitan fatta in casa con rucola e crema di ceci e per finire in bellezza torta allo yogurt con salsa alla cannella. I vegani non mangiano solo erba, come si sente dire spesso. Costo di 18 euro, gratuito per i bambini fino ad 8 anni. E la prenotazione è tramite mail pranzocorte@outlook.it. E poi si comincia con gli appuntamenti culturali invece. Grazie alla gentilezza della proprietaria della libreria Beccarelli. Partirete parlando di vivisezione, lo farete con un film. Abbiamo scelto questo tema perché ci sembrava urgente e anche molto attuale, direi, viste le polemiche degli ultimi tempi. Massima dose tollerata, appunto, maximum tolerated dose, è un argomento molto delicato, siamo coscienti. Per questo interverrà Bruna Monami, che è la presidente della sezione di Arezzo, a fare l'introduzione al documentario, all'eventuale poi dibattito che seguirà. Il 25 marzo alle ore 18 invece si parlerà di circhi, delfinari e zoo. Recentemente abbiamo avuto modo tutti purtroppo di vedere l'uccisione del giraffino Marius allo zoo di Copenaghen. Uno magari va anche in buona fede in uno zoo, porta il proprio figlio allo zoo, al circo o ad un delfinario, pensando a uno spettacolo educativo e che il delfino o l'orso o la tigre, qualsiasi animale, si diverta a fare quello che fa, e noi vogliamo dimostrare che non si diverte assolutamente nessun tipo di animale e il bambino non impara nulla se non a violare il corpo di un animale, insomma, non averne rispetto. Interverranno i ragazzi di Posi, della Fattoria della Pace. Questo vostro ciclo si concluderà l'8 aprile, sempre alle ore 18, con un incontro sulla scelta vegan come stile di vita, come filosofia che dovrebbe guidare le nostre scelte. Dal punto di vista sia salutistico che etico, interverranno la dottoressa Anna Romano e Fabio Serrozzi, attivista del GAT, anche lui del gruppo antispecista Toscana. La manifestazione, abbiamo deciso di chiamarlo Liberi Tutti, Siamo Tutti Terrestri, c'è l'evento Facebook, ci è sembrato il titolo più adatto per racchiudere tutte queste tematiche.